salve a tutti cari amici e benvenuti alla decima puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Come sempre al microfono per voi il vostro speaker vagabondo Fumino e chiaramente qui fra qualche giorno è il Santo Natale e allora qua siamo tutti molto più buoni, siamo tutti molto più disponibili e a me sinceramente, non so a voi, questo buonismo, questo essere per forza bravi, per forza amici di tutti ed avere tutte queste belle cose nell'animo solo in questo periodo dell'anno mi rimane un po' indigesto. Io non è che non condivido il fatto di essere delle brave persone, non è questo il discorso. Il discorso è: ma perché in questo periodo dell'anno per forza prolificano i buonisti? I famosi buonisti, quelli che magari per tutto l'anno si fanno assolutamente gli affari suoi, poi se ne escono con un'associazione, un banchino e ti fermano per la strada e magari aiuta qui e aiuta là e fanno la faccetta preoccupata e ti giocano, ti pressano l'ego sul discorso che essendo Natale dobbiamo essere più buoni, dobbiamo fare delle carità, dobbiamo pensare agli altri. Ma effettivamente sì, è vero, ma non a Natale e basta. Cioè, alla fine, se una persona ha nell'animo di essere buona con le altre persone, che ce l'abbia tutto l'anno, non solamente in queste due o tre settimane che vanno dall'8 dicembre al 6 gennaio. E non è assolutamente una cosa savia, secondo me. Anzi, è una cosa che generalmente mi fa sempre abbastanza trasalire. Non sei libero, alla fine, in questo periodo, di uscirtene per la strada, ti trovi i classici mercatini di Natale e fai due passi, sei fermato 12 volte, e però va bene, tutti contenti, tutti lì, ah sì sì, prendi qui e prendi là. E quando vai al mare e passa magari il senegalese che vende gli asciugamani, invece quello ti infastidisce, quello ti dà noia perché anche quello c'ha da mangiare come un'associazione qualsiasi. Quindi volevo dire, dov'è allora il problema? Perché allora d'estate quando sei in spiaggia al senegalese lo scacci magari e poi no, sotto Natale dobbiamo fare la beneficenza, dobbiamo fare la carità? Ma per favore, ma cerchiamo di essere caritatevoli e sinceramente vicini agli altri tutto l'anno. Ma che cavolo di senso ha a esserlo solo per una settimana l'anno? Non ha assolutamente senso. Che fa? Una persona l'aiuta a mangiare per una settimana l'anno e tutte le altre 50 settimane dell'anno che gli fai fare? La fame sotto al ponte? Cioè, però ti sei lavato la coscienza, sei tranquillo, sereno con te stesso, te ne vai poi a casa, ti mangi il pollo arrosto e sei tranquillo perché hai fatto la tua beneficenza, hai cacciato un euro per quella scuola lì, hai cacciato un euro per la parrocchia di là e non va assolutamente bene, secondo me. C'è da essere caritatevoli se una persona lo ha nell'animo di esserlo, perché fare la carità solamente perché sei magari nel corso principale del paese e tutti ti vedono e ti vergogni a non dare l'euro e ti vergogni, ti senti in colpa, cioè, e allora fai questo gesto esclusivamente per farlo, non che non avviene dal cuore, non ha nemmeno senso farlo la carità, tanto vale che te lo tieni te quell'euro, perché la carità non è il discorso di fare un euro a un'associazione piuttosto che a un'altra. Cioè, la carità è la si fa perché ci riempie qualcosa il cuore averla fatta, perché ci fa sentire più ricchi averlo fatto. Questo è, secondo me, l'approccio più corretto per fare la carità, altrimenti diventa una passarella, te ne vai per la strada e siccome quello passa, siccome quello vede, quello poi dice il paese, cioè allora non ha tanto senso. Quella non è assolutamente carità, quella è compiacimento proprio. Quello è solamente volersi liberare se stessi da alcune colpe, da alcune cose, e lo fai con il mezzo più economico possibile, vale a dire facendo una piccolissima carità a un qualcosa a caso. No, non è così che funziona, questa non è vera carità, secondo il mio punto di vista. Chiaramente io non so nessuno, ci mancherebbe altro, poi qui tutti a dire, a fare, però non è non è tanto, secondo me, corretto fare così. Un altro aspetto di questo periodo dell'anno che rientra un po', non è nel fare la carità, però che rientra molto in questo periodo dell'anno, qual è? È quello di essere per forza accondiscendenti, di essere per forza disponibili, di essere per forza pronti a stare con le altre persone. Magari ci sono persone che chiaramente ci hai avuto in passato dei rapporti anche magari molto frequenti e molto anche sinceri, ci mancherebbe altro. Però poi la vita, chiaramente ognuno fa la sua, la vita porta ad unirsi e porta anche a disunirsi, porta ad allontanarsi, chiaramente. Poi te fai la tua vita e magari una persona che hai frequentato per un po' e capita che non la frequenti da un anno, da 2 anni, da 3 anni. Se te la ritrovi sotto Natale, le feste, sì, e vediamoci, e andiamo, e auguri, e vediamoci per farci gli auguri, vediamoci di qui, vediamoci di là, usciamo, dobbiamo fare una cena. Quante cene facciamo in questo periodo? Praticamente, se stessimo dietro a tutto quello che ci coinvolge, una cena fuori tutte le sere per almeno un mese di questo periodo, è perché dai da salutare quelli dell'associazione di qui e poi da salutare quegli amici di bar, gli amici della palestra e quelli di sotto e quelli di sopra, e la cena di qui e la cena di lavoro e la cena della scuola. Insomma, è una cosa allucinante anche questa cosa qui, secondo me, perché e fa piacere, ci mancherebbe ci si ritrovi con le persone, che si passi volentieri del tempo insieme, sì. Ci si può ritrovare anche a maggio, ci si può ritrovare anche a aprile, ci si può ritrovare anche a ottobre, perché per forza sotto Natale ci deve essere questo concentramento di appuntamenti fissi che se non li rispetti allora diventi te il diavolo in croce, proprio diventi la persona più cattiva del mondo, perché hai visto che stronzo quello perché non è venuto alla cena di Natale degli amici. Ma sì, vabbè, siamo amici, se siamo amici io sto vivo tutto l'anno, sto vivo, quindi e te per me è uguale, stai vivo tutto l'anno, cioè non solo in questo periodo dell'anno. Quindi se a me mi interessa sapere qual è la tua vita, cosa fai, se stai bene, se stai male, se ridi, se piangi, se c'hai problemi oppure no, e mi interessa di saperlo tutto l'anno, non esclusivamente a Natale, e non perché se non ti vedo per tutto l'anno non è perché a Natale non vengo ad una cena che divento la persona cattiva. Facciamoci delle domande, cioè evidentemente c'è un perché che non ci interessa assolutamente a nessuno dei due durante l'anno di cercarci, perché non ci cerchiamo mai, e poi sotto Natale bisogna per forza stare insieme. No, io ci mancherebbe questo. Io ti faccio gli auguri di avere una vita serena, come questo mi sembra assolutamente normale e pacifico, perché comunque va bene così. Ma il mio tempo lo spendo effettivamente in un altro modo, cioè alla fine c'è quella frase del film La Grande Bellezza, che è secondo me una scena molto emblematica, quando il protagonista, dopo aver fatto sesso con una persona, questa persona gli dice: vuoi vedere le mie foto, vuoi vedere, e lui acconsente, quindi lei se ne va nell'altra stanza, e poi la scena bellissima, la stanza vuota e lui che se ne esce nella piazza Navona deserta, e la voce fuori campo dice una cosa molto, secondo me, molto corretta, quando dice: ho un'età per cui non ho più tempo di fare cose che non ho voglia di fare, che non ho interesse a fare, e se ne va, lascia lì questa donna e lui se ne va. Secondo me è una scena geniale e molto vera, cioè alla fine il tempo in cui si può essere sempre presente per tutto e per tutti c'è, quel tempo c'è, è un tempo molto adolescenziale, è un tempo molto che si vive molto presto nella vita. Chi lo ha vissuto, lo ha vissuto, ma poi quando la vita ci presenta chiaramente ogni giorno il suo conto delle cose che vanno in una direzione piuttosto che in un'altra, va seguita. Non secondo me non è corretto cercare per forza di rincorrere una gioventù che chiaramente non torna, che chiaramente non c'è stata, è stata importante, ci ha formato, ci è servita, ma non c'è più, è andata. Io la penso così. Quindi io penso che quando facciamo queste scelte, quando facciamo queste cose, è preferibile essere coerenti con se stessi sulla linea della nostra vita che abbiamo tutto l'anno. Non ha assolutamente senso cambiare, modificare le nostre abitudini esclusivamente perché è Natale. È Natale, bene, alla fine finisce l'anno legale fra qualche giorno. Sinceramente io sostengo da sempre che il primo dell'anno, l'anno nuovo per ognuno è diverso, cioè per ognuno è il giorno del suo compleanno, secondo me, questa è la mia teoria. E quello che succederà il 31 dicembre, il 1 gennaio è esclusivamente il primo dell'anno politico, quello che per convenzioni, per far andare il mondo in una certa linearità fra i popoli, diciamo, e quindi è fissato un giorno comune a tutti, ma che c'è da festeggiare. Il mio primo dell'anno, per quanto mi riguarda, è il giorno del mio compleanno, e gradisco molto di più quel tipo di auguri lì che non questi. Cioè alla fine si può avere un anno nuovo di tasse, un anno nuovo di impicci, di gabelle da pagare o di cose da fare che magari non c'è nemmeno voglia. Cioè, oh, non è proprio un granché, non è proprio un granché come previsione. Vabbè, amici, forse un po' qualcuno è rimasto scioccato da questa visione molto schietta, ma ahimè io sono tendenzialmente sono una persona schietta, quindi ve le dico come ce l'ho, ve le dico come le penso. Prendetele e fatene tesoro, fatene buon uso e cercate di stare in pace con voi stessi. Bene, allora ci risentiamo a questo punto dopo Natale. Io vi auguro di fare una bella mangiata per Natale, di divertirvi e di essere come sempre saggi. A presto cari amici per la nuova puntata di Vagabondo in giro per il mondo sulle frequenze di Radio Big World.